se sali a Sassari puoi provare alle Micro Garibaldi quello che vende microfoni, attrezzatura wifi, quello lì, io l'avevo comprato lì. Una mi si era rotta, una giù, una giù, ma poi alla fine ne ho tolte, cioè, non fa niente. Quando metti la spugna nell'MC60, chiudi i laterali e c'è solo il centrale, non va bene, è meglio lasciarlo libero il 60, capito? Ah, va bene. No, perché la spugna è più bella, con lo spugnone, con la testa più grossa è più bella. Non so se ne ho una io di quelle grandi, devo controllare, ma sì, è bellino, lo fa più bellino il microfono, però ti crea questo effetto, ti chiude gli acuti, capito? 60 deve lavorare aperto, bello e togamoso, a differenza di quello che stai usando adesso, quello lì sì, la spugna si può mettere, ma no, ce l'ho io uguale, quel microfono non ne ho mai messo spugna, perché lo stesso le chiude la tonalità, capito? Fa variare la tonalità. Va bene, Antonello quindi è uscito, Tore è andato, Eugenio c'è ancora, Carlo, Daniele, grazie, Daniele, tocca mandare un messaggio, si accendia dalla radio, vai Carlo. Anche io prima ho provato a rilanciarlo, Daniele, ma non si è sentito, sicuramente ha avuto da fare, oppure non lo so se ha cambiato frequenza e magari da altre parti, non ne ho la più pallida idea, però già si sentiva bene stasera, Santiago qua mi arrivava Santiago 7, Radio 4, diciamo per l'antenna che ho già va bene, Nicky. No, arruffo un iregna, buon iregna. Sì, che qualcuno fuori legna, fuori legna, c'è un po' freddo. Vabbè ragazzi, io vi saluto che devo uscire, ciao a tutti. Ciao Giova. Ciao Gio, ci sentiamo alle prossimine, dai, stiamo bene, già ci aggiorniamo telefonicamente. Vai Carlo. Ciao Eugenio, alle prossime, dai, ci sentiamo domani, se vieni a Sassari di pomeriggio, di primo pomeriggio, se ti sento già ti rispondo, benemeda, ciao. Ciao a tutti, ciao, buonanotte. Ciao Eugenio, già ci aggiorniamo per telefonia, dai, stiamo bene. E quindi Carlè, dai esce, così è, va bene, sono contento, stai uscendo una favola, vuoi vedere quando montiamo l'altra antenna, fai un disastro, dice Marco Pondo, è già preoccupato. Adesso sì, vediamo quando sistemarla quell'altra antenna lì, dovrei sicuramente dovrei migliorare di abbastanza pure, dai, perché se riesco a salire sopra quel tetto che c'è già è qualcosa. Comunque, già è a posto, pronta da mettere, la devo solo portare su, aspettare un po' di tempo buono, che non ci sia vento e non piova, e poi già si fa tutto. La prossima settimana, ma te l'ho detto, quell'antenna è nata per... Non ha ostacoli, non le dà fastidio niente, capito? È nata proprio, è fatta bene. C'è questo mio collega radioamatore di Oristano, quando ci sentiamo in 10 metri mi arriva 9 in 10 metri in diretta, mi da Oristano 98 450, ma è una bomba, è contentissimo. Lui ci aveva prima una 5 bande, l'ha tolta, ha messo quella monobanda e la usa solo per i 10 metri e per la 27, perché anche lui usa il baracchino lì vicino a Cabras, no? Lì in quella zona lì, ed è contentissimo, capito? È un'antenna eccezionale, e anche lui ce l'ha bassa, però quell'antenna non gliene frega niente dell'altezza, capito? La provete dove vuoi. Sì, già io ho avuto modo di provarla, come l'ho messa al primo colpo, perfetta di rosse, di tutto, capito? Sia come ricezione che trasmissione, diciamo antenna così non ne avevo mai avuta, già lo sai, arrivavo dappertutto con quell'antenna, dove potevo arrivare con i watt che avevo ci arrivavo tranquillamente. Ma poi una 7 ottavi, capito? Non è una 5 ottavi, una 7 ottavi. Quindi nel modo in cui la metti recuperi tantissimo, se con una 5 ottavi per dire ti arrivano 9, con quella ti arrivano 9-10, l'ho già constatato, perché le avevo messe una vicino all'altra, la mantova è quella, è col commutatore, le prove si fanno così, stessa radio, stessi watt, solo commutavo, ma mi aumentava di 10 dB, ma lo sai la ricezione che avevo, favolosa. E anche io infatti se la metto spero di ottenere un netto miglioramento rispetto a questa, che sicuramente ci sarà, visto anche la dimensione che ha, l'altezza e insomma la tipologia di antenna che si presta anche a essere piazzata, capito, a livello del terreno a volte, esce bene comunque, capito? Io lo dico, esce bene, poi lì non pensare che sia in basso, sia anche aperto, perché con quella boomerang stai sfasciando tutto, arrivi a Porottore, arrivi al Ghero, arrivi a Itri, arrivi da tutte le parti, qua sei 9 pieno, io non ti vedo, quindi hai un segnale come quelli che usano l'antenna grande, non c'è problema, immaginati con quella secondo me hai proprio un calo minimo rispetto a come ce l'avevi prima, ma hai una ricezione, una trasmissione alla grande. Sì, infatti già la metterò a regime quell'antenna lì. Oh Claudio, mi sa che anche io me ne vado in cucina a prepararmi la cena, tu te l'hai già preparata e immagino ci impieghi poco tempo a sistemarti a mangiare. No, io mi ho già preparato anche l'insalata, tutto pronto. Verso le 8, iniziamo a cena alle 8, 8 e 10, do uno sguardo al TG e poi niente. Dai, lascio tutto acceso qua, nel caso rientra Antonello, qualcuno già rispondo, ok, perché vi sento. Dai, preparati la cena, Carle, a dopo. E capo, anche io mi lascio acceso qua e vado a prepararmi la cena, così per le 8 poi se è tutto pronto, anch'io mi ascolto un po' di notizie. Mi sa che la Corte Suprema americana ha abolito i dati di Trump, stavo leggendo sul computer, vediamo cosa dicono al telegiornale, e quello cambia tutto, e anche a livello di petrolio e di tutto, perché così il dollaro perderà parecchio. Speriamo che abbassi questo cacchio di pellet che mi attendi ancora un paio di mesi, poi abbiamo finito. Va bene Carlo, dai, allora ti auguro buona preparazione di cena e io sono qua in ascolto, grappa. Ehi, buona serata, dai, a più tardi se va bene. Ciao a tutti, anche chi è in ascolto. Ciao Carlo, a dopo. Aspetto, dottor Canarino, e se sei scito? Cos'è che vai, Giovà? Buonasera. Allora, come va? Tutto a posto. Ma comunque ci va bene con Ciampi, non arrivi no con Ciampi. Perché ora è facile, io devo cambiare canale per non disturbare qui e la giubbesso. Fatta da gaddo, Giubizzino, fatta da gaddo, Stanno andando a preparare la cena, già va. Spostatevi sul 12, se no siete un patatrac in occhi. Ci sentiamo dopo, ciao. Dai, come lo sento, spostare. Buona cena. Già va, fa le portate, se no è un casino. Ciao Luca. È bella. Ehi, tamponato, ciao, come ti sta già? Bene, ecco, pure di botta di cazzo vuoi andare. Vuoi che c'ha vapuni a botta già a te? Bene, ecco, si lavora, si dorme, mi domani, oggi volevo uscire un paio d'ore, ma non esco, me ne sto a casa. Ho già cenato, andiamo lo stesso, ho fatto la pipì per te. Io ciao da Claudio. Luca ha bozzato, per molta di gai Claudio. Cane. La parola le manca la parola. No, io non ho già andato lungo, mi l'aria esce stasera, che in ferie, adesso riuscivo a farci un giretto stasera con le amiche, andiamo a bere così, poi guarda, c'è tra la ghita della maglietta e bruetta. Vabbè. Per il resto si tira a campà, lui, si tira a campà. Così, è proprio così, si tira a campà, no, a campà, no, a campà. Sì, a campare il buio. Ascolta, ma la macchina pregia te l'hai tu, no? Guarda che c'è una bellissima C3 bianca con 80.000 km di una donna anziana. La voleva prendere l'aria, me ne avrei dato il gloria. Bella mia, mai avuto incidenti, nulla, nuova, nuova. La sta vendendo 1.700 euro, compresa il passaggio. E di che anno è? È del 2007-2008, una cosa del genere, ma nuova, nuova, 80.000 km, c'è la frizione nuova, gomme nuove, cinghia di distribuzione nuova, c'aveva figurati dei ritocchi da fare, gliel'ha fatti fare questa signora, c'era Roberto, è lì, parcheggiata in officina Roberto fuori, c'è scritto vendeci, detto, la voleva comprare l'aria, non le piace il bulone, è della vola nera, fissata un chitoniedo, cazzo. Claro, io mi viaggio la C3, io ho la C3, la mia è del 2008, e ieri ho fatto cambiare da meccanico le gommini sono qua, degli ammortizzatori, che quando prendevo fuoco si faceva casino, capito? Scine, blocchi, quelli in gomma, ci li avevo cambiati anche all'Alfa io. Vabbè, no, questa è una nuova, 80.000 km, è un peccato, è un peccato. Infatti, quando perché non te la prendi là, un paio d'anni, due o tre anni, hai speso una cazzata, la macchina è buona. Non l'ha voluta che è bianca. Ecco. Ehi, Giovanni. Mi salutare a Luca che tanto che non lo vendo, che va che non lo vedo. L'ultima volta ci siamo visti il candelini. Ciao Luca, come stai? Giovanni lo sento basso o basso. Ti ha salutato, non lo senti, arriva qua e non lo senti tu. Basso basso, ecco, cazzo, non ho manco messo leva lo smitter. Sentito la Giovanni Luca. Io lo sento, mi sento a te, bene, benissimo anzi. Ecco di te livello, ma lui mi sente, boh, io non riesco a cioè basso basso, è basso di radio. Il segnale è quanto il QRM, non è A. No, ti ha salutato, tu ti senti benissimo, no, qua hai 5 Giovanni, a differenza della Cruiser 5 che non arrivi al logo, Giovanni arriva benissimo qua, S5, la radio è buona. Bocca, non lo so. Vabbè, salutamelo tu, dai, già passo a salutarlo. Ehi, a Giovanni, d'accordo, dai, ti saluta Giovanni, lui, ha detto che da un bel che non ti vede, va bene. Ehi, cosa cambia, lo sento basso basso, Cla. Ma c'è nessuno stasera. Tra che tu la due, mi indizi, e tutti chi va a portare il cane, chi va a preparare la cena, sono le 8:15, siamo da Resi in radio. Per sera ci siamo, 6:30, sino alle 7:30, 8:15. Ehi, clan, non la vede la brittella. Ah, così, infatti mi lascia troppo io stacco, vado a guardarmi un TG e poi a cerare. Gaffa, gaffa. Ascolta, invece io sto andando sempre bene, sì, con questa vecchia baracca. Sempre il solito qua, benissimo. Mi vedete il tuo primavera, insomma, marzo, aprile, ci butto altri due tubi sopra, la tiro su stamato, vai, mi pongo lo sgabello, ne cacco un BL, è bassa, bassa, capito? La tiro su almeno a un altro paio di, altri due di 20 metri, 4 metri. Così la metto due tirantini e la lascio stare così, almeno ho più ricezione, più trasmissione. Oh, qua arrivi bene, molto bene. Adesso da metà parte non ci passo più. E da là, quella volo là non ci sono più, me ne sono andato. Sono da Panali e basta. No, brava zio, là. 10 ore, 11 ore al giorno. Poi tu pensi mi alzava alle 3 del mattino, poi tipo zio, poi no, non faceva, sì, ti portare qualche soldino in più a casa, ma non me la putti nuda, la salute è più importante dei soldi. Ma ve la vai, ti deprimi, ma ve la vai, ti devi mangiare, te lo credo, te lo so, sì, col lavoro, devi alzare il prezzo, imbustarti tutto, prepararti tutto, caricarti tutto, alle 5 c'è già i scendi, alle 6, no. Assolutamente no, Lu, statene sereno e tranquillo, basta uno di lavoro, anche se magari qualcosa in meno, ma la manco non ti cresce le balle. Beh, alla fine sì, così. No, vabbè, mi sto con lo stipendietto, già va bene. Adesso mi sto conservando i soldi, se riesco a fine anno a cambiare questa macchina, vuoi prendere una macchina buona. c'è una macchina che almeno un paio d'anni c'erano lì, stai tranquillo, no? Che c'è oggi di Cubezzo, domani di Cubezzo, ecco perché era una macchina a seconda mano qui ai suoi anni, è normale, normale, cla. E tu guarda, quando l'ho fatta? A dicembre mi sono fatta, no, no, cazzo l'ho fatta? Ad agosto dell'anno scorso, cazzo, ho fatto la testata, 5 di distribuzione e pompa dell'acqua, cazzo, 450 euro, ma avevamo due vai almeno, è carico. E ti ho voluto così, allora ho speso per la 5 distribuzione 350 euro, solo per la 5 distribuzione, poi lo ti ricupo la previsione, lo risento io, ma sono macchine che sì, ti durano, ma ci devono mettere un sacco di soldi sopra, infatti varia metto quello per qua, è l'ultima che spendo 1500 euro, 2000 euro, ok, quanto ti fa? Due anni, in questi due anni quanti soldi ci devi mettere sopra? Perché ci rimetti? Preferisco aspettare marzo, aprile, maggio, prima dell'estate e mi compro un bel usato garantito, capito, di quelle aziendali, spendo di più ma almeno c'è la macchina nuova. Esatto, io sono del parere di comprare una macchina, lo so, la paghi, ho 10.000 euro, anche 12.000 euro, ma compri una macchina buona che ti fa anni, però se li fai tagliandi se la tieni in conto, altrimenti stai lì sempre a buttare i soldi. Diciamo che vabbè, questa cosa l'avevo pagata 1.800 più passaggio, 2.100 l'avevo pagata, poi ci avevo messo il radiatore nuovo perché trasudava e si mangiava il liquido perché era mezzo rotto, non lo so, vabbè. E poi vabbè, piccoli lavori, adesso devo cambiare le gomme, le davanti, 140 euro le gomme, e claro, 100, vabbè, io ho speso 100, 110 euro per cambiare quei gommini. Cinecina Brock, sì. E quello è il prezzo, perché c'è anche la manodopera, ti fanno pagare la manodopera, capito? Non è tanto i piedini, i gommini, ma è la manodopera che ti fanno pagare. Vabbè Lucaria, dai, piacere averti ascoltato, un abbraccio grande grande, vado a vedermi un po' di TG e poi a cenare, ok? Vamo già a 30, ciao! Ehi, dai, cla, anche io sono riposo. Salutami in casa, alla prossima, ciao! Ciao Lucaria, quando sei libero che vuoi passare a trovarmi già lo sai di soggo, ciao! Ehi, è facile, ciao! Beh, ciao te belli! Proprio in chimino, poi se oggi lo usi, ma in chimino! Quando vuoi Lucaria, lo sai che per te il cancello del Claudio è sempre aperto, ciao! Ehi, ciao Cla, ciao!